24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Ma sì, iniziamo anche questa settimana con il Dies Irae. Il Dies Irae. Il Dies Irae. Il Dies Iva. Doveva aumentare. Guardate l'aspetto positivo, cari italiani. Oggi, 1° luglio, doveva aumentare l'IVA di un punto. E invece aumenterà tra 3 mesi, più o meno. Allora è così, dai, guardiamola con ottimismo. Doveva aumentare l'IVA, ma abbiamo slittata. Gli F-35 dovevamo comprarli, li abbiamo slittati. Doveva modificare l'IMU, per ora è slittato. Per il Corriere, per Giannelli, è diventato Enrico Slitta. Vabbè, siamo qua e questa è 24 mattino, c'è Alessandro Longoni che è con noi, ci accompagnerà tutto luglio a quest'ora, quindi non rispondo molto di quello che succederà. Lo saluto caramente, lo saluto anche il nostro alpino, Peter Bescapè mi fa il segno del cuoricino, sapete quando Pato segnava il gol. Saluto il nostro alpino. Sì, sì, non ce la contrasti da 3. Milan, sei proprio un coglione. Ma è possibile che sei un perro così, lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, pazienza. Ce ne faremo una ragione. Voglio salutare subito Matteo Salvini della Lega. Buongiorno Matteo, ben svegliato. Buongiorno, buona settimana che ci ascolta. Eccoci. Allora, invece voglio salutare da Pechino uno che Matteo Salvini lo conosce bene, mi sa, perché forse vi siete incrociati qualche volta a Piazza Pulita. Il nostro grande, unico, immarcescibile, inimitabile e inarrivabile Alberto Forchielli. Buongiorno. Salve, buongiorno. A Pechino c'è sempre lo smog in casa, Forchielli? Ah, sembra di essere Ostiglia il 4 febbraio. Perché succede? Ah, c'è la nebbia, il nebbione, sì, il nebbione. Beh, occhio bello, sì, cioè, Ma uno dice, cosa fa un romagnolo? Cioè, pensa in questo momento alla piadina, a casa, ai litorali, al mare, al fresco, e invece dov'è? A Pechino, nel nebbione. Ma uno viene risucchiato nel vortice del lavoro, poi non ci pensa. Cioè, se ci fosse il sole sarebbe peggio, perché ci verrebbe voglia di andare fuori. Invece, bello, un bello, fuori, vai. Meglio un bello, vai. Smoggone di quelli, no? Meglio lui tanto vale stare con la nebbia. Infatti, meglio stare con la nebbia per non avere la nostalgia di casa. Allora, chiariamolo subito. Matteo Salvini, oggi doveva aumentare l'IVA e non aumenta. Dunque, tutto bene, no? È una presa per il culo. No, come una presa per il culo? Perché? Io chiedo se esiste un paese al mondo dove per rinviare di 3 mesi una tassa se ne aumentano altre 2, come acconti a novembre, IRPEF e IRES, e l'acconto supera il 100%. Cioè, per il rinvio dell'IVA ci saranno acconti che arrivano al 110%. Penso che si vada anche contro la grammatica italiana. Sì, esatto. Ci devi dare quello che ci dovresti dare anche nel 2017, un pochettino. Soprattutto, se a novembre il cittadino imprenditore come acconto deve dare il 101%, quando arriva il saldo, quanto dai? Cosa succede? Ti ridanno indietro qualcosa? Quindi è una pesantissima presa in giro. Vabbè, ma l'altro l'ha detto anche Monti dopo Renzi, coi piccoli passi non si va avanti. Anche Monti ha detto, coi piccoli passi non si va avanti, siamo pronti a uscire anche dal governo. Forchielli, non ha aumentato l'IVA, va bene? Oppure Enrico Slitta, come dice il Corriere della Sera? No, io temo che questo calo del PIL più accentuato di quanto avesse previsto il Tesoro, nasconda un buco più grande di quello anticipato, perché si pensava a un calo dell'1%, 0,5%, in realtà il PIL cala dell'1,9%, per cui ci deve essere delle ripercussioni anche sui ricavi. Per me la situazione sui conti non è bellissima. Non è bella. Cioè, che vuol dire? Cioè, ci scopriamo. Che ci vuole che faccia sul governo Lettusconi? No, ho capito. No, però ho capito. Mi faccia capire. Cioè, rischiamo un bel buco. Siamo quelle barzellette sui carri armati italiani, no? Che facevano 4 marce indietro, una marcia avanti. Durante la guerra gli inglesi si pigliavano in giro con le barzellette, dicevano che i carri armati italiani avevano 4 marce indietro, una avanti, e questo è Lettusconi. Lettusconi è così. Non poteva mica essere diverso, non poteva mica essere diverso. Ma come? Ma io mi scusi, Forchielli, mi arrabatto su sta cosa, ma come non poteva essere diverso? Hanno tutti i numeri, visto che non c'è un'opposizione forte numerica, per fare tutto! Per fare tutto quello che vogliono, tutto. Lo so, però da un lato Berlusconi aveva promesso, aveva preso diversi punti elettorali promettendo di togliere l'IMU e forse anche l'IVA, credo, una cosa del genere, per cui le promesse vanno mantenute. Poi bunga bunga, bisogno di tenere in piedi i consumi, se no la Fininvest Media se gli caschi in testa. E questo tieni presente, perché ha perso 300 milioni, poi chissà quali sono quelli veri, e se continua a andare così i consumi, la pubblicità, per cui lui ha bisogno di pompare su, quell'altro sono dai vaccini con la Merkel, per dire fidati, per cui sono inchiodati, capito? Sono inchiodati. Come si chiamano quegli animali che avevano la testa, il corpo da cavallo e la cosa... Un unicorno, come si chiama? No, gli animali, cioè una roba senza due teste, capito? Che c'entra? Vale avanti e indietro. L'unicorno è quello delle fantasie, quel corno centrale. Sì, no? Sì, siamo uno di quelle robe lì, capito? Sì, Un mostro. Vabbè, ma questo abbiamo fatto. Salvini, adesso ci dobbiamo lamentare. Vabbè, e qua Salvini è uno di quelli che dice la Lega è sempre stata contro, quindi questo cos'è? Un mostro? Come lo definirebbe il governo, Ma non infierisco neanche tanto, è vero che ha una maggioranza larghissima, sono venuta da PD e PDL che sosteneva anche il governo Monti, ormai sono quasi 2 anni che governa la stessa maggioranza e che non combina assolutamente niente, anche se come attenuante devo dire che ormai le decisioni passano sempre meno da Roma e partono sempre più da Bruxelles, quindi se devo scegliere il mostro, però quello pericoloso in giacca e cravatta, alla quarto Reich del 2000 a Bruxelles, quindi il nemico pubblico numero uno che vorrebbe condizionarci e volerci poveri tutti quanti sta a Bruxelles ormai, ma non tanto come, da quarto Reich addirittura, cos'è il quarto Reich l'Europa? Sì, ma Salvini. Assolutamente sì, c'è un preciso disegno per toglierci libertà, possibilità di lavorare, dignità, moneta unica, Europa unica, pensiero unico, quindi non è più neanche tanto Roma il nemico pubblico del lavoro, ma purtroppo è a Bruxelles ed è molto più cagnesco e pericoloso. Forchielli, ha sentito qua dalla Cina, che ne pensa di questa analisi di Salvini? Il vero quarto Reich lo rischiamo con Bruxelles? No, beh, Bruxelles non conta più niente, non ci va neanche più nessuno, al limite parliamo di Berlino, ma Bruxelles, poveracci, capito? Ormai non c'è. Quando viaggiano Obama e Li Keqiang non va neanche a Bruxelles più, vanno a Berlino, capito? Gli ultimi 2 viaggi da est a ovest sono andati a Berlino, a Bruxelles non sono cagati pari. Beh, diciamo che i tedeschi non hanno fatto niente per farsi voler bene, ma lì c'è una lunga teoria mia su questa cosa qui, no? I tedeschi ritengono che non... qualunque cosa faccia non servirà mai... per cancellare l'onta del passato e per essere amati. Poi i tedeschi in questo momento si sono ristrutturati 20 anni fa, loro hanno avuto l'urto dell'integrazione con l'Europa dell'Est e sono stati costretti a ristrutturarsi industrialmente 20 anni molto prima di noi, perché hanno risentito dell'integrazione economica del paese dell'Est molto prima di noi. E dopo nei primi anni 2000 ha seguito la politica facendo tutta una serie di aggiustamenti al welfare state, alla legge sul lavoro, alla legge sulle pensioni e compagnia. Quindi si sono messi a posto e loro dicono: beh, l'abbiamo fatto noi 20 anni fa perché non avete fatelo voi. Ma forse Salvini, quando parlava di Quarto Reich, si riferiva proprio a questo. Tonaccio, capiatica, fammi finire. Una volta che non mi viene in mente una cosa intelligente, la seconda cosa è che i tedeschi sono ancora traumatizzati da quello che hanno speso per l'integrazione con la Germania dell'Est. Cioè, non c'è un tedesco che non ti dica: al centesimo quanto hanno speso fino ad oggi, quanto spenderanno per i prossimi 15 anni e mezzo per la Germania dell'Est, che sono dei tri. Per cui loro da un lato si sono ristrutturati, dall'altro stanno ancora spendendo per la Germania dell'Est. Sì? Ritengono che noi siamo dei piccoli perché dovevamo fare delle cose 20 anni fa e non le abbiamo fatte. E quindi vedono le loro esportazioni e aumentare quelle verso i paesi emergenti. Ho capito, ma alla fine viene fuori questa roba qui, capito? Questo ho capito, ma Forchè può finire come crede. Sì, però ti stai spostando, Forchè. Ma ti stai spostando però, perché il cellulare qua va e viene. Tra l'altro mi ha suggerito Forchielli, l'Irco Cervo potrebbe essere. L'Irco Cervo, sì, un Irco Cervo. Quello di Tusconi è un Irco Cervo. Cioè, governo le Tusconi. C'è una maggioranza di gente che non va d'accordo, quindi capito, non so cosa dirti. Un Irco Cervo. Perché tu sei schiavo dei termini. È una maggioranza di gente che non va d'accordo. Ma non schiavo dei termini, tu l'hai detto. Com'è? E mi hanno suggerito l'Irco Cervo via SMS. Ma è un Irco Cervo. È un Irco Cervo, ecco. Manca botta, no? Da qui manca poco. Cioè, quando cadono? Quando cade il governo? Molto dipende, secondo me, dai conti Mediaset che dalla roba giudiziaria. Sto Mediaset. Se mangia il panettone siamo fortunati. Se mangia il panettone pensano che non arrivi a Natale. Ah, bene. Salvini forse è quello che spero. È meglio andare a giocare i cavalli, che almeno i cavalli sono belli, che cercare di giocare sulla politica italiana. Salvini, ma cade a ottobre il governo. Facciamo questa bella previsione ottimistica. Ma me lo augurerei, anche se, ripeto, il problema ce lo porremo nella prossima primavera, quando ci saranno le elezioni europee, perché o si recupera sovranità politica e anche monetaria, soprattutto ridiscutendo l'Europa e l'euro, oppure in Italia al governo può esserci anche la fatta turchina tipo Pluto o Topolino, che magari può aumentare dei danni, che però, ripeto, partono d'altrove. Quindi mi auguro che cada il prima possibile questo governo, perché è una presa in giro, soprattutto da parte di quelli che sono i nostri alleati in tanti comuni e regioni del nord, che sono quelli del PDL, perché si comportano nelle regioni del nord in una maniera, ma poi quando votano a Roma fanno l'esatto contrario. Ma quando riferì al Quarto Reich, si riferì a Berlino? Proprio guardava Berlino? Non solo. Sì, però i tedeschi fanno il loro interesse, io non la butto in cacciare Italia, Germania calcisticamente, i tedeschi fanno i loro interessi. No, ma è chiaro questo. Non sono solo i tedeschi, però non è vero che Bruxelles conta poco, perché è la sede di tutte le istituzioni bancarie, finanziarie, che ci stanno togliendo la produzione. Quando un paese togli la produzione, quando all'Italia chiudi l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la manifattura, i mobili, il tabacco, l'acciaio, le automobili, quando un paese toglie produzione e ricchezza, quel paese diventa schiavo. E quindi io veramente sono preoccupato, perché i nuovi nazisti stanno là, decidono da là, non tanto da Roma ormai. Stanno là. Vabbè, qua a Forchielli abbiamo scatenato il pandemonio, l'Irco Cervo, ma c'è chi ci dice anche l'Ippogrifo, il Minotauro. L'Ippogrifo volevo dire io, perché l'Irco Cervo può darsi, ma non conosco, Ippogrifo. L'Irco Cervo è mezzo cervo. Le Tusconi è un Ippogrifo. Le Tusconi è un Ippogrifo. Io rilancio con l'Ippocampo, che è anche un ottimo bar che fa degli ottimi cocktail a Recco sulla riviera lì. Dove? L'Ippocampo di Recco. Siamo alla pubblicità, come minimo ci devono un cocktail a questo punto. Tutti all'Ippocampo di Recco. Dov'è che è Salvini? L'Ippocampo di Recco. È sul lungomare. domani vi giuro, il primo weekend libero vado a Recco e chiamo l'Ippocampo. Ho detto che abbiamo fatto pubblicità a Radio 24, Radio Nazionale, è arrivato fino a Pechino. Tutti all'Ippocampo di Recco. 24 mattino. Avete capito o no che la politica, i politici non contano più niente? C'è il potere occulto, la criminalità, i capitalisti decidono di investire sul lavoro, bene. Se decidono di ridistribuire il denaro che hanno rubato fino adesso, bene. Se no è finita. L'avete capito che i politici non contano più niente? È inutile che gli statali votano per cercare di mantenere il loro posto di lavoro. È finita! Ciao Alessandro. Che l'Italia ha ridato indietro negli ultimi 5 anni 65 miliardi di euro di finanziamenti da parte dell'Unione Europea, sia nel Fondo Sociale Europeo che nei fondi strutturali per la viabilità, le scuole, eccetera. Scusa, Milan, con 65 miliardi qualche punto di IVA lo potevamo abbassare? Un pochino di lavoro ai giovani si trovava da dare? È Luca da Foligno, per la potatura dell'olivo si paga il 21% d'IVA. Poi dopo dice che uno non ti fa fare le fatture. Per forza, il 21% d'IVA è un'esagerazione. Noi agricoltori vi mettiamo alla grande, come al solito. In Brasile fanno casino per una stronzata, il popolo. Noi invece paghiamo e restiamo zitti. Siamo proprio un popolo di caproni. Ma perché non fanno pagare le tasse anche alle prostitute? Fate i quartieri a luci rosse, metteteli in regola e fategli pagare le marchette. Le marchette devono pagare anche loro. Chi mantengono loro, mantengono i magnacci e mandano soldi anche a casa. E noi qui a contare i centesimi. Le marchette devono pagare. Simpatico il Forchielli, sembra di sentire Vasco Rossi. Vasco Rossi, abbiamo il nostro Vasco Forchielli, ha sentito da Pechino? Sembra di sentire. Sono lusingato. Lusingato, Vasco Rossi, conterraneo. Sì. Oh. Ma perché no? Sì. Bella cosa, no? Vasco Rossi, Forchielli come Vasco Rossi. Il nostro grande Vasco. Vabbè, siamo con Forchielli, siamo con Matteo Salvini. Forchielli mi sa che ha ragione, come dice il primo ascoltatore della segreteria, che è tutto finito. Forchielli è uno di quelli che dice la politica non conta più nulla, è la grande finanza che No, basta. Niente. Zero. Sono delle marionette. Guarda, sarebbe bene distribuirli sugli autogrill a fare il gioco delle tre carte. Così almeno con delle patacche, con dei Rolex falsi dentro il cappotto, così almeno fargli pagare le tasse, così almeno. Dice, fargli fare un accordo con i monopoli di Stato, così almeno porta a casa 2 lire. Servono a qualcosa, dice. Non c'entra niente. Guarda, tra i vincoli europei, tra la finanza mondiale, tra il mondo globalizzato, sono lì che si arrabattano. Marionette. Allora, insomma, capito, Salvini che oggi parte, magari va a Bruxelles, domani non lo so, niente conto. C'è questo senso di inutilità della politica, c'è o no? No, non sono assolutamente d'accordo. La politica può fare delle scelte, ma vado all'altra telefonata, la tassazione della prostituzione. Sì. Ne sono straconvinto, come Lega ci proviene da tanti anni, forse per la presenza del Vaticano è più difficile in altri paesi, ma stanno pensando addirittura di promuovere un referendum. Ne abbiamo parlato settimana scorsa col vostro, c'era interesse con questo governo. Sì, però prostituzione. C'è un conflitto di interesse. Non può questo governo intervenire su questa materia, per correttezza. No, dice Salvini, dice Forchielli che questo governo ha un conflitto di interesse su questo tema. Però no. Io sono d'accordo con non Salvini. Non so e non voglio sapere a cosa allude. Però la buona politica conta, la buona politica può gestire le case popolari, può abbassare le rette nelle case di riposo, può aiutare i genitori separati divorziati economicamente, quindi... Senza politica non esiste niente. Sì, ma quello che vuol dire Forchielli forse è che sono queste cose importanti che riguardano la gente, ma non sono le grandi politiche di governo, orientare i governi. Cioè Forchielli dice i governi vengono orientati da altri. E qualcuno ci abbia fatto svendere il portafoglio e le chiappe a qualcun altro votando tutte le porcherie europee, dai MES, i fiscal compact... Però c'è una politica che ha votato contro, la Lega si è chiaramente opposta e cercherà di distruggere queste porcherie. Quindi io sono convinto che la buona politica sia fondamentale. Si può fare. Allora, Forchielli, voglio mettere anche di buon umore, voglio metterti di buon umore anche da Pechino. Ieri Daniela Santanchè, che oggi forse verrà nominata vicepresidente della Camera, ma forse no, perché ci sono dei franchi tiratori, ha detto, era dalla Luce Annunziata, e ha detto questo, è un principio sacrosanto per il Popolo della Libertà. Sentiamo. Lei ha mai, guardato negli occhi lo scenario peggiore? Si è mai messo, si è affacciato sulla possibilità drammatica che il leader del suo partito, Silvio Berlusconi, sia messo in una situazione da stare agli domiciliari? Si è fatta un giorno, un'ipotesi del genere? No, vede, non me la sono fatta, perché noi combatteremo, perché il presidente Berlusconi ha una forza che altri nel passato non hanno avuto, che sono i voti. I voti! Forchielli, questo è, ci sono i voti, no. Massimo Fini. Ma chi era la Santanchè? Quel mascherone da Oba Oba, quella lì? No, dai, Forchielli, su, è quasi la vicenda. No, aiutami a ricordare chi è. È quella roba lì da Oba Oba, quel mascherone. Lo sai bene chi è. Adesso Daniela Santanchè. Non è che seguo la politica italiana, sì. Daniela Santanchè, quasi vicepresidente della Camera. Dice abbiamo i voti. Scusa, non mi è sfuggito. I voti, questo è Massimo Fini sul Fatto, sabato aveva fatto un pezzo del Diva, insomma, allora uno adesso praticamente Berlusconi può accoltellare Veronica nella schiena, c'ha i voti, può fare tutto, questo ovviamente per paradosso, Forchielli, quindi niente, non vuole commentare sulla Santanchè, non la conosce. Ma non capito, cioè, la politica in un paese molto indebitato, molto invecchiato, con una demografia negativa, con una pletora di impiegati pubblici, un settore pubblico non produttivo, capito? Con metà paese assistito, riesce a fare molto poco. Ossia, le vie d'uscita sono molto poco. La mia proposta era quella di evacuare i giovani, capito? Prima che vadano tutti in malora. Evacuare i giovani. Fare delle politiche per mandare via i giovani. Ma come? Fanno le politiche per dare 200.000 posti di lavoro? Fanno le politiche per dare 200.000 posti di lavoro ai giovani in Italia? Ma va là, stai a credere a quelle pugnette lì, dai. Ma dai, andiamo su, stiamo ancora a credere a queste robe qui. Bisogna creare delle agenzie private, o nulla di pubblico, che aiuti i nostri giovani a uscire, ma di tutti i livelli, capito? Andarsi. Si colleghino con il mondo via internet, via. Mica sono i talenti, ma che i talenti, siccome sono talenti, si arrangiano a uscire a fare i camerieri, i manovali, i pizzaioli. Proprio mandarli via tutti. I tornitori, via tutti. Mandarli fuori prima che perdano qualunque professionalità. Tutti. Hai capito? Qui prima di mangiarsi le giovani generazioni del tutto, capito? A meno che vadano fuori a lavorare, a formarsi e poi magari un giorno minimo vivremo di rimesse dei migranti come le Filippine. Ma io non mi aspetto niente da questa classe politica, perché ha le mani legate e nessuno ha la forza di fare quello che bisognerebbe fare. Vabbè, speriamo di no. Intanto con questo messaggio positivissimo vi lasciamo al Giornale Radio. Grazie Alberto Forchielli e Matteo Salvini. Ci ritroviamo e poi è ora tempo di Giornale Radio, poi la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui allora, sono le 7 e 16 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali con voi e per voi in questo primo luglio e siamo pronti anche a ricordarvi gli ospiti. Dopo, oggi torneremo a parlare di un tema, il gioco d'azzardo legalizzato. Lo facciamo con una visione, se volete, provocatoria, visto che Liscio esce proprio in questi giorni un libro dal titolo Elogio del gioco d'azzardo, scritto da Cesare Lanza, che sarà nostro ospite, e per parlare insomma di questo tema, un giro d'affari di 87 miliardi di euro stimato l'anno, che spesso viene criticato, demonizzato, da alcuni invece viene elogiato. Cercheremo di capire in maniera molto laica che ne pensate di questo settore molto molto diffuso in Italia. Elogio del gioco d'azzardo, certo, già messa così nel titolo è una forte provocazione. Ne parleremo più avanti con Cesare Lanza, per l'appunto sarà con noi anche Riccardo Bonacina, direttore di Vita. E che dire? Possiamo andare a leggere i giornali? Sì, facciamolo. Come detto, è il primo luglio, è iniziato luglio, è lunedì. Allora intanto guardiamo i titoli. L'edizione del Sole 24 Ore del lunedì apre sull'occupazione, le nuove chance dei bonus lavoro. È una sorta di test di convenienza tra gli incentivi che sono stati approvati dal governo, che sono stati fatti e dovranno essere confermati per quel che riguarda il bonus, soprattutto gli incentivi per il lavoro e l'occupazione giovanile. La maggior parte dei quotidiani apre invece sulla vicenda di spionaggio rivelata da giornali tedeschi e inglesi, il Guardian e le Spiegel. Spionaggio USA l'ira dell'Europa, Corriere della Sera, questa è l'apertura. Anche l'Italia spiata dagli USA, così apre Repubblica. La Stampa, spionaggio, l'ira dell'Europa, a rischio i negoziati con gli Stati Uniti. Il Secolo XIX, spie, guerra fredda, UE, USA. In pratica eravamo spiati tutti, anche la nostra ambasciata italiana, questo almeno raccontano i giornali. Le fibrillazioni, un termine tanto caro al Presidente della Repubblica Napolitano, sul giornale, agguati al governo, le mine sulle larghe intese, e il Messaggero mette un'intervista a Angelino Alfano, il governo non rischia, questo è il titolo di apertura di prima pagina. L'edizione del Fatto Quotidiano del lunedì, dalla Russia con terrore, questo è il titolo, è una storia sulla mafia russa. In particolare la criminalità georgiana più che russa sbarcata in Italia. Allora, voglio partire da che cosa? Intanto, questa è la classica notizia, mani sul volante, visto che si parla di delle vostre patenti, cari italiani. Mani sul volante perché? Perché, come scrive il Sole 24 Ore, sono 10 anni esatti, 10 anni dalla nascita della patente a punti. Lo sapevate? Ve ne siete dimenticati? E d'altronde siamo ormai così abituati a questa nuova, a nuovo strumento. Allora, i punti al top per 5 milioni di patenti, sono passati 10 anni, racconta Rossella Cadeo a pagina 7 del Sole 24 Ore. 10 anni dopo l'introduzione della patente a punti, solamente 5 milioni di patenti di italiani sono rimaste intonse, senza una decurtazione, neanche di un punto, neanche di mezzo punto, e dunque sono gli italiani pronti ad avere 30 punti sulla patente, se la partita a 20. Jackpot per quasi 5 milioni di licenze di guida, sono quelle su oltre 37 milioni attive in Italia che non hanno mai subito decurtazioni, che stanno arrivando al punteggio massimo, 30 crediti. Sono i virtuosi. A quanto ha giocato la fortuna per queste persone, quanto i comportamenti virtuosi, ovviamente non è dato sapere. Resta il fatto che il meccanismo della patente a punti nel complesso può considerarsi una misura largamente positiva, così dicono al Ministero. Ha segnato certamente una transizione da una fase in cui la licenza di guida non veniva messa in discussione a una fase in cui va conquistata giorno per giorno. Allora, siete tra i 5 milioni di italiani che avete la patente a punti intonsa, non avete mai commesso nessuna infrazione in questi 10 anni? Vergognatevi, no, scherzo. A proposito di notizie riguardanti la macchina o comunque il comportamento sulla strada, visto che c'è questa patente a punti, salto sul secolo XIX, dove Marco Froio racconta quello che nelle multe degli italiani continua a non andare bene, vale a dire gli aumenti indiscriminati. Multe, pagina 4 del Sole del secolo XIX, gli italiani costretti a pagare di più. Sono sotto accusa sempre le maggiorazioni sulle contravvenzioni. Ormai, scrive il secolo, non basta più stare attenti a non prendere le multe, bisogna anche stare allerta una volta prese per non pagare molto più del dovuto. La maggior parte dei comuni infatti pretendono non solo il raddoppio della sanzione una volta trascorsi 60 giorni della contravvenzione, ma applicano anche interessi di mora semestrali del 10%. Bene, sappiate, cari italiani, che questi ultimi interessi di mora sono stati dichiarati illegittimi da una sentenza della Cassazione nel lontano 2007, dunque 6 anni fa. Nonostante ciò, una sentenza di cui anche Equitalia continua a non tenere conto, nonostante ciò i comuni continuano a fare applicare queste more, interessi di mora semestrale del 10%. Ma come? Ma come? Ma se c'è una legge della Cassazione che considera tutto questo illegittimo, i giudici avevano detto che gli interessi sulle sanzioni arretrate sono illegittimi, ma lo Stato ha sempre snobbato una sentenza della Corte di Cassazione, in 6 anni nulla è cambiato. E sappiate che se lo Stato vi chiede il 10% di interessi di mora semestrali, oltre alla maggiorazione, tutto ciò è illegale. C'è una sentenza della Corte di Cassazione che lo stabilisce, ma tutto ciò viene bellamente ignorato dallo Stato stesso che vi dà questa multa. Vi sembra una cosa normale a voi? Non lo so, ditemelo. A proposito di multe, salto sul Corriere della Sera, pagina 25, dove c'è il racconto di un caso limite affidato a Giuseppe Guastella. Ed è questo: lite sulla fattura, chiama la finanza, alla fine è condannata a risarcire l'azienda. Chiama la Guardia di Finanza per denunciare una fattura che riteneva irregolare. Questo si è trasformato in un incubo per una cliente di un'impresa di pulizie condannata dal giudice di pace di Lecco a risarcire con 120 euro l'azienda per il tempo perso a causa del controllo delle fiamme gialle. È una vicenda anche molto minore, veramente per una prestazione da un centinaio di euro. Una persona, una donna anziana, si è fatta pulire casa, alla fine ha pagato 60 euro facendo uno sconto. Ma ragazzi, ma io man mano che leggo questa notizia mi rendo conto della vicenda. Cioè, noi italiani poi ingolfiamo i tribunali. Ascoltate bene, 60 euro senza fattura, con uno sconto di 4 euro. La signora dice: no, io pretendo la fattura. Va bene, allora con la fattura deve pagare il 20% di più. La cliente continua a pretendere la fattura, alla fine ottiene la fattura, ma senza lo sconto di 4 euro. Al che va nella sede dell'impresa, chiama la Guardia di Finanza, dice: voglio lo sconto di 4 euro anche in fattura, come avete promesso. Chiama la Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza arriva e si trova di fronte a due versioni, quella dell'imprenditore, dell'impresa di pulizia, e quella della signora. Non sapendo cosa fare, dà ragione, dice che la vicenda è chiusa così e va bene così. Ma a quel punto l'imprenditore, spazientito perché è stato infastidito dalla signora che ha chiamato la Guardia di Finanza, cita la donna di fronte al giudice di pace di Lecco, chiedendo il risarcimento da danno ingiusto subito in conseguenza della sospensione dell'attività lavorativa e della lesione della reputazione commerciale. Chiede 1000 euro, ottiene solo 120 euro, quindi la signora ha pagato 60 euro o 90 euro delle pulizie più 120 euro, alla fine condannata con l'avvocato che dice: è una cosa incredibile, una sentenza preoccupante, ora faremo ricorso, pure l'appello per una causa da 120 euro. Chissà l'avvocato quanti se ne prenderà, e chissà l'ingolfamento al giudice di pace di Lecco, che dovrà vedere di qui di là chi ha ragione, chi non ha ragione, e così. E questo è anche uno spaccato dell'Italia. Prima della pubblicità voglio raccontarvi e leggervi quello che scrive Marco Cubeddu. Marco Cubeddu è uno scrittore che da oggi scrive Il Secolo XIX, inizia una collaborazione con Il Secolo XIX e inizia con un pezzo che trovate in prima pagina, che un pezzo di costume fotografa una realtà delle ragazze italiane che però farà un po' discutere come teoria. Marco Cubeddu, ragazze in shorts, ma vi siete viste? Così scrive Cubeddu in prima pagina sul Secolo XIX. Qualche settimana fa ero a Roma per lavoro, trascorrevo la pausa pranzo a Villa Borghese su una panchina, quando a un certo punto sono stato travolto da una nube di quartine in shorts. Con quartine a Roma si intendono quelle di quarta ginnasio, cioè 14enni. Non solo in shorts, ma anche in mini shorts. Il jeans arrivava molto più in alto della fine dei glutei. Alcune si toglievano la maglietta, restavano in reggiseno. Altre con magliette bagnate per i gavettoni, il reggiseno non lo indossavano. Qualche giorno fa ero in Sardegna, in giro per paesi molto piccoli. Anche lì ragazzine giovanissime, con una parte consistente di chiappe in vista. Sono rientrato a Genova per una rimpatriata con la mia classe delle medie. Siamo andati a bere qualcosa nei vicoli, straripavano di mini shorts. Ho chiesto alle mie compagne da donne, loro erano perplesse. Secondo una di loro, non possono lamentarsi se poi le stuprano. Ovviamente non esiste, non deve esistere nessuna giustificazione attenuante per azioni tanto barbare. La violenza sulle donne è disgustosa, anche se personalmente penso che femminicidio sia una parola idiota. Ogni omicidio è un omicidio, dovremmo condannarlo senza ricorrere a ridicole discriminazioni di genere. Inoltre, anche se impopolare, bisogna dirlo, spesso le violenze domestiche nascono da situazioni in cui donne con scarsa personalità si legano a zotici della peggior risma. Ma più che una questione di genere, mi sembra una questione di mancanza di strumenti culturali. Perché le ragazzine si vestono così da sgualdrine? Nessuno dei miei amici si fidanzerebbe con una che si veste così e nessuna delle mie amiche si vestirebbe così. Non si tratta di moralismo. Personalmente sono grato a questa moda. È un piacere vedere tutte queste Daisy Duke, e chi guardava Hazard non può aver dimenticato, girare per la città. Ma non capisco perché una ragazzina dovrebbe voler apparire in questo modo. Cosa pensano di ottenere? Beh, insomma, questo è parte dell'articolo di Marco Cubeddu, ragazza in shorts, ma vi siete viste? Le liceali mezze nude non sono più emancipate delle donne che portano il velo. Scrive ancora Cubeddu, siamo così convinti che mettersi il velo sia prigione e i mini shorts siano libertà. Siamo convinti non esista una via di mezzo in cui milioni di donne si trovano perfettamente a loro agio? Insomma, care quartine, a voi la scelta. Life is short, o shorts per i pantaloni. Questo Marco Cubeddu in prima pagina del Secolo XIX. Noi ci fermiamo per la pubblicità e il meteo e poi ripartiamo da che cosa? Beh, siamo tutti spiati. Adesso gli americani ci spiavano. Spiavano tutto, anche l'ambasciata italiana. Questo almeno, e non solo ovviamente italiana, di mezza Europa, con l'Europa che ora chiede spiegazioni, e poi la politica italiana, il nuovo che si stacca da Enrico Letta è Mario Monti, che dice così, con i piccoli passi, non va bene e siamo pronti a uscire dal governo. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora sono le 7:36 minuti, continuiamo la lettura dei giornali. Come detto, molti quotidiani aprono con che cosa? Con la notizia degli spioni. Gli spioni, gli Stati Uniti avevano un programma, questo non è stato rivelato da Edward Snowden, la talpa che è in fuga, anzi si trova adesso credo come Tom Hanks nel famoso film The Terminal, si trova in una zona di nessuno nell'aeroporto di Sheremetyevo a Mosca, perché ha il passaporto americano annullato e così, in una zona transiti, viene da Cracovia praticamente. E, non è la talpa Edward Snowden, è un'altra talpa che dice attenzione, ha detto al Guardian e allo Spiegel che hanno diffuso questa notizia. Gli americani in pratica spiavano in maniera totale tutti gli stati, anche considerati amici, tra cui l'Italia. Obiettivo Cicuta, racconta per esempio il Corriere della Sera, pagina 2, il titolo dell'articolo: nel mirino degli agenti americani anche le sedi diplomatiche italiane. Obiettivo Cicuta, così gli agenti segreti chiamavano in codice la missione diplomatica italiana presso l'ONU a New York, messa sotto sorveglianza grazie alle cimici, microspie, piazzate sulle linee telefoniche, nei computer. Obiettivo Bruneau era invece la nostra ambasciata a Washington, negli Stati Uniti, ugualmente spiata. E Dropmeyer si chiamava il sistema di ascolto e l'intera operazione di spionaggio attivata su 38 ambasciate occidentali in tutti gli Stati Uniti. Tecniche sofisticate, si cercavano prove di contrasti tra le capitali, si usavano antenne nascoste, cimici piantate nei fax criptati usati per le comunicazioni con i vari governi. Insomma, il Guardian e Der Spiegel hanno fatto questa rivelazione ieri, che ovviamente ha rischiato di compromettere i rapporti tra Europa e Stati Uniti. Vincent Cannistraro, che 30 anni è stato esperto di servizio della CIA, è stato anche capo della CIA in Italia, viene intervistato da Ennio Caretto sul Corriere della Sera e dice: difende gli americani, non c'è da scandalizzarsi, è la nostra prassi, la seguite anche voi. Prima di gridare allo scandalo, analizzare il Datagate, bisogna capire bene due cose: non si tratta di spionaggio a tappeto sui cittadini, si tratta di immagazzinaggio di dati elettronici e telefonici da usare esclusivamente nella lotta contro il terrorismo. E anche i paesi nostri alleati, l'Italia esempio, hanno un programma di intercettazioni più o meno simile al PRISM della nostra National Security Agency. Forse questa nostra telefonata, dice Cannistraro, viene intercettata, ma se è così giacerà probabilmente per anni e anni in archivi elettronici senza che nessuno l'ascolti, perché i nostri numeri telefonici non sono tra quelli che fanno scattare l'allarme. Nel corso del tempo io ho avuto conversazioni telefoniche o scambi di posta con gente sospettata di terrorismo e spero proprio che li abbiano registrati e esaminati. Mi preoccuperebbe molto se in America non avessero fatto questo. Insomma, Cannistraro difende questa cosa. In realtà il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, intervistato da Repubblica, pagina 11, da Andrea Bonanni, dice: sono scioccato, in caso le notizie siano vere mi sento, da cittadino europeo e presidente del Parlamento, trattato come un nemico. Questa può essere la base di una relazione costruita sulla fiducia reciproca? Non credo. È sconvolgente pensare che gli Stati Uniti possano prendere misure del genere contro il loro alleato più stretto, misure comparabili a quelle messe in pratica del KGB nell'Unione Sovietica ai tempi della Guerra Fredda. Sì, perché questo è il punto, come tutti fanno notare sui giornali oggi. In genere gli amici, tra virgolette, gli alleati non si intercettano, si intercettano i nemici semmai. Però molti giornali aprono su questa vicenda. Tra l'altro la nuova talpa, racconta Guido Olimpio a pagina 5 del Corriere, tale Wayne Madsen, che ha lavorato per almeno 4 anni, dall'84 all'88, all'agenzia di spionaggio elettronico National Security Agency negli Stati Uniti, è considerato un personaggio improbabile, così definito dal Corriere, seguace delle teorie del complotto. Per esempio, si è cimentato molto sull'attentato dell'11 settembre 2001, mescolando elementi plausibili e teorie cospirative. Madsen ha più volte parlato di un coinvolgimento del Mossad, cioè i servizi segreti israeliani, di ambienti americani, di personalità saudite insieme o divisi per abbattere le torri gemelle. Questa nell'analisi di Guido Olimpio sul Corriere della Sera viene definito, insomma, questa talpa che ha dato queste notizie al Guardian e al Der Spiegel, una persona di attendibilità scarsa. Comunque le reazioni ci sono state anche dall'America, in realtà dicono più che altro la difesa: non scandalizziamoci, quindi in qualche modo ammettendo che un qualche tipo di controllo di spionaggio sia plausibile. Veniamo alle cose più italiane. Il lunedì è il giorno delle interviste, sapete, la domenica i ministri non lavorano, poi in questo momento il premier Enrico Letta è in Israele e è a Gerusalemme, farà visita all'autorità palestinese, ha ovviamente visita di Stato anche un incontro con il premier israeliano Netanyahu. Tra l'altro Enrico Letta, che viene definito dal Corriere della Sera Giannelli, nella vignetta di Giannelli oggi è straordinaria: sospesa l'IMU, rinviata l'IVA, congelati gli F-35, sono il vostro Enrico Slitta. Ecco, questa è un po' la politica italiana, l'idea di in tre mesi vedere che succede. Intanto segnalo che d'autunno ci sono le elezioni in Germania. Sarà che mica si vuol capire chi governerà lì, per capire chi terrà in mano un po' il pallino, e poi si deciderà. Intanto Napolitano il Presidente della Repubblica, come racconta il Corriere della Sera, è a Zagabria per i festeggiamenti dell'entrata dell'Unione Europea della Croazia e dice: è assurdo sminuire il ruolo italiano al vertice europeo. Questo lo trovate a pagina 6 del Corriere, sotto appunto le interviste. La domenica è il giorno delle interviste. Allora il Corriere della Sera intervista il ministro allo sviluppo economico Zanonato, il Messaggero e lo fa scrivendo l'articolo Antonella Baccaro: lo rintracciamo dopo una gita in montagna, reduce da una gita in montagna. Il Messaggero invece intervista Angelino Alfano: reduce da una gita in mountain bike. Questo sul Messaggero, ma lasciarli ai loro tranquilli, alle loro tranquille e serene incombenze della domenica. Vabbè, il ministro dello sviluppo economico Zanonato: la cassa depositi a difesa delle reti strategiche. Così, pagina 6 del Corriere, è una proposta che Zanonato dice: è un mio punto di vista personale, non voglio esprimerlo, lo esprimo nel pieno rispetto delle competenze delle economie, ma per non disperdere il patrimonio delle grandi imprese italiane, come ad esempio Alitalia e Telecom, mi chiedo se l'ipotesi di un intervento della Cassa Depositi e Prestiti non possa essere valutato. Lo Stato non fa l'imprenditore, ma può intervenire a supporto delle reti strategiche di interconnessione nazionale e internazionale del Paese. Questo è il mio punto di vista. Uno Zanonato che poi commenta le previsioni di Confindustria dicendo: la salita per l'Italia non è ancora finita, siamo usciti dalla procedura di infrazione, ma finché non potremo fare investimenti fuori dal patto di stabilità e i pagamenti della pubblica amministrazione non saranno entrati nel circuito economico, potremo permetterci solo iniziative a costo zero. A proposito di iniziative, l'IMU, c'è un'ipotesi che spunta, e sono sempre sul Corriere della Sera a pagina 9, l'ipotesi è che l'IMU venga riformata così: non pagheranno l'IMU. L'idea è di esentare dal pagamento della nuova tassa non chi ha un reddito basso, anche perché di mezzo ci sarebbe sempre il problema dell'evasione fiscale, non chi ha una casa non di pregio, visto che i valori del catasto sono molto spesso lontani da quelli reali, ma fuori dalla nuova IMU potrebbe restare chi rimane al di sotto di una certa soglia nel calcolo del nuovo ISEE, l'indicatore di situazione economica equivalente, il cosiddetto riccometro. Quindi esentare dall'IMU in base al riccometro. Infatti il titolo dell'articolo è: riforma IMU, allo studio del governo l'imposta collegata al riccometro. E poi ci sono le fibrillazioni di governo. Monti che dice: così non va bene. E poi udite, guardate, non è una barzelletta, ma ci sono due articoli, uno su Repubblica che dice: ora è urgentissima la riforma elettorale, e un altro un'intervista al ministro Delrio sul Quotidiano Nazionale che dice: entro luglio, se tutto va bene, faremo un decreto per abolire le province. Ecco, vi lascio tempo per meditare durante il traffico, ricordandovi che inizia oggi, come ho scritto sul mio profilo Twitter, Alino Milan, inizia oggi ufficialmente la nona settimana decisiva per la riforma elettorale e la nona settimana decisiva per l'abolizione delle province. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, la riforma elettorale, vi giuro, cari ascoltatori, se vi siete messi a ridere durante l'informazione sul traffico, non per l'informazione sul traffico, ma meditando su riforma elettorale e su province, penso che non siate i soli ad averlo fatto. Comunque, sappiate che in un retroscena di Repubblica, Napolitano blinda Letta, ma il PDL accusa Grasso e Monti minaccia la crisi, cioè un pastone, un punto della politica. Liana Milella e Umberto Rosso raccontano che ora tra i democratici hanno ribattezzato questa operazione la clausola di salvaguardia. Parlano, udite, di una nuova legge elettorale da fare subito per cancellare il porcellum in tempi rapidissimi e con un tratto di penna. La considerano imprescindibile per stoppare il prossimo possibile temuto blitz del Cavaliere. Eccolo qui, un blitz che potrebbe precipitare il paese nell'ennesima corsa al voto, se, soprattutto se la Corte Costituzionale dovesse accogliere in autunno il ricorso della Cassazione e cancellare il Porcellum. Insomma, i democratici hanno deciso che la battaglia per la clausola di salvaguardia rappresenta il baluardo sul quale sfidare i berlusconiani, su cui puntare i piedi. E dunque, definita l'urgenza di una nuova legge elettorale da fare subito per bloccare Berlusconi. Questo su Repubblica, sì, un pochino viene da sorridere. Come Andrea Cangini, quando intervista sul Quotidiano Nazionale il ministro agli affari regionali Graziano Del Rio, che parla di tante cose importanti, poi a un certo punto la domanda: ministro, riuscirete ad abolire davvero le province? Sentite, Del Rio dice: tra martedì e mercoledì, cioè domani, la Corte Costituzionale dovrebbe esprimersi sui ricorsi. Se, come spero, la consulta ci consentirà di trasformare le province in enti di secondo grado con funzioni gestite dai comuni, entro fine luglio un consiglio dei ministri fisserà l'abolizione delle province con legge costituzionale. Se tutto va bene con la consulta, entro fine luglio. Le fibrillazioni. Oh, Monti ieri ha scritto su Facebook: Letta cambi marcia o noi lasciamo. Questo è il titolo di Repubblica, del Corriere. Monti sfida l'esecutivo: cambi oppure Scelta Civica se ne andrà. C'è un retroscena anche sulla stampa di un Letta che ha preso male la notizia. Letta, che è appunto a Gerusalemme, come detto, e racconta Amedeo La Mattina, pagina 9 della stampa: critiche inaspettate, la doccia fredda per Letta, convulsioni della sua maggioranza che inseguono Letta anche a Gerusalemme, dove si trova per visita ufficiale. Il premier ha voluto ritagliarsi un pomeriggio rilassante visitando la città vecchia con la moglie, ma in serata son piombate da Roma le parole di Mario Monti, che dà ragione a Matteo Renzi: i piccoli passi non bastano. E quindi questa è una fibrillazione. Anche il Fatto Quotidiano: dopo Renzi, Monti, Letta, così non va. E allora cerca di fare un po' il pompiere Angelino Alfano, intervistato il vice premier dal Messaggero. Barbara Jerkova, pagina 3: l'esecutivo non rischia, però il PD si mostri reale. Questo è il titolo dell'intervista, ma in realtà la sensazione è che ci siano proprio questi tremori, queste scosse, per cui si vede all'autunno come una possibile ipotesi di finestra per cui il governo possa non reggere. A questo proposito, dall'altra parte, nel Partito Democratico anche Renzi ha le sue gatte da pelare, perché è partito l'assalto, l'asse anti-Renzi, questo è il titolo del Corriere, oppure l'alto là di Epifani a Renzi, è il titolo di Repubblica. Distinguere segretario e premier, l'accusa è quella di utilizzare il partito per arrivare alla premiership, tanto che oggi Enrico Galli della Loggia dedica a Renzi l'editoriale di prima pagina. Il titolo è: la bulimia del candidato. Scrive Galli della Loggia: le cause della popolarità del sindaco di Firenze sono notissime, all'Italia vecchia e immobile del sempre uguale, dell'arabesco concettuale avvitato su se stesso. Egli contrappone con la sua figura un paese giovane, voglioso di muoversi, di mettere nuovamente alla prova le proprie energie, di tentare vie nuove. Proprio da questo punto di vista appare incomprensibile quanto egli stia facendo da 3 mesi, accettando di essere coinvolto nelle manovre di un partito che è sì il suo partito, ma per tantissimi versi è il suo contrario, un partito vecchio, conteso da anziani oligarchi, quarantenni ribelli ma dell'ultima ora, laddove Renzi è come che sia simbolo di una gioventù vera che non ha avuto paura di uscire allo scoperto, un partito campione di conformismo, omologazione culturale, laddove Renzi si fa forte della propria spregiudicatezza, eppure troppo. È singolare, scrive Galli della Loggia, che egli oggi si faccia tentare dall'idea di diventare il segretario di un partito del genere. Così Galli della Loggia su Matteo Renzi, e staremo a vedere come va a finire. C'è anche per la politica da segnalare, prima del premio finale, la carta costa, c'è anche oggi, Beppe Grillo. Aumentano le voci di un Beppe Grillo dato per partente. Tommaso Ciriaco su Repubblica: Beppe Grillo è stanco, partirà presto per una vacanza forse in Australia, poi dopo l'estate il leader è pronto a un tour mondiale, Stati Uniti, Giappone, Europa, forse anche Sud America. sta già raccogliendo materiale. D'altronde si è lamentato del danno economico venuto dalla politica. La tournée sarà utile a rilanciare anche la sua immagine di leader politico. La missione di Grillo oltreoceano pronta una tournée in America, così Repubblica. Chissà se Beppe Grillo smentisce, come ha fatto col Corriere qualche giorno fa. Eccoci qua, il premio La Carta Costa per l'articolo più inutile scovato oggi sui giornali. Siamo sul Corriere della Sera, ben tre quarti di pagina, pagina 27, a firma Guido Santevecchi. Manipur, sfratto al re e lui protesta digiunando. Ma che? È la storia di un re in India. Un re che fa lo sciopero della fame contro il governo costituzionale, non si vede tutti i giorni, succede in India, dove il sovrano, piuttosto decaduto, fa sapere anche il Corriere, del Manipur, per quattro giorni ha rifiutato di nutrirsi per contestare le autorità che lo vogliono sfrattare dal palazzo che fu dei suoi avi. La motivazione è che la reggia di Sana Konung, bene archeologico, cade a pezzi e il governo la vuol salvare. E sua maestà, Leishenba Sana Jaoba, si sente tradito. Si sente tradito, cari ascoltatori. Tre quarti di pagina. Per la reggia a pezzi, l'India la vuole restaurare e lui ha scioperato per quattro giorni con lo sciopero della fame, una roba che Pannella avrebbe fatto in due secondi, come voglio dire, per Pannella è un allenamento lo sciopero della fame di quattro giorni. Ma cari colleghi del Corriere, la carta costa, ma chi se ne frega del re del Manipur che sciopera per quattro giorni a non mangiare? E vabbè, così è andato di fatto. 24 mattino. Eccoci alle 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, io partirei da una cifra che voglio che vi stampiate subito nella mente: 87 miliardi di euro, più o meno un decimo della spesa pubblica in Italia di ogni anno. A questa ammonta, secondo stime ovviamente, il giro di affari del gioco d'azzardo in Italia. Torniamo a parlare di questo tema, il gioco d'azzardo legalizzato in Italia. Si sa quando si parla di gioco d'azzardo che cosa si tira fuori? Vengono raccontati i drammi, spesso viene associato questo tema al drammi delle persone, a storie di chi prende un vizio che diventa poi un'ossessione, rischia così di far perdere denaro, affetti. Viene definito come qualcosa di distruttivo, di rischioso, viene demonizzato. Sono per esempio sempre più gli amministratori in Italia, gli amministratori di comuni, che fanno queste battaglie contro le slot machine o queste macchinette che trovate nei bar. Vabbè, l'approccio di oggi invece sarà un po' diverso, almeno il punto di partenza, perché il punto di partenza è un libro che è stato scritto invece in difesa del gioco d'azzardo, tanto che subito il titolo fa capire da che parte si sta: Elogio del gioco d'azzardo, un vero e proprio pamphlet il cui autore è un giornalista, autore televisivo, è Cesare Lanza, che saluto. Buongiorno e benvenuto, Lanza. Buongiorno a tutti. Allora, elogio del gioco d'azzardo, questo è il punto di partenza. Voglio salutare anche Riccardo Bonaccina, che è direttore editoriale del mensile Vita, tra l'altro, buongiorno Bonaccina, ben ritrovato. Buongiorno, gli ascoltatori. Dedica da tempo anche, si spende molto per questa battaglia no slot, proprio la battaglia per cercare di bandire questo tipo di strumento del gioco d'azzardo. Allora, il punto di partenza, come detto, invece oggi lo vogliamo fare come questo elogio del gioco d'azzardo. Cesare Lanza è anche un giocatore. Lanza, lei parte anche da una provocazione molto forte, a dire siccome la vita è un azzardo, la vita è un gioco, ogni giorno ci spendiamo per qualsiasi decisione facciamo. Per esempio, facciamo un caso: uno vuole comprare una casa, decide di comprarla, poi non lo sa se quella casa tra 10 anni varrà di più, varrà di meno, sarà in una zona di pregio. Tutte le nostre scelte sono un gioco, un azzardo nella vita. Allora, tanto varrebbe insegnare fin da piccoli, fin da quando sono all'asilo, ai bambini, l'idea che la vita è un azzardo, è un gioco. Beh, bella provocazione tanto per partire, o no, Lanza? È esattamente come hai detto, è una provocazione fino a un certo punto. Detta così brutalmente, tutti o quasi gli ascoltatori si scandalizzeranno, ma in realtà è così. Ogni giorno noi affrontiamo delle sfide piccole, ma a volte grandi, grandissime, decisive, tipo per esempio il matrimonio, mettere al mondo un figlio. È un azzardo giusto, ovviamente, ma è un azzardo molto più grande che perdere o vincere qualche soldo nel casinò. Ma poi il mio discorso relativo alle scuole è esattamente questo, il saggio logico è questo, tutto ciò che noi facciamo nella vita, consapevolmente almeno, è di cercare un equilibrio con noi stessi e verso la vita, che significa poi in poche parole saper perdere, saper vincere, accettare la vita com'è. E il gioco, che è una metafora della vita, insegna questo. Ovviamente può essere un elemento distruttivo e pericoloso, ma se fosse insegnato, spiegato, potrebbe essere anche utile all'educazione. Ecco, perché il punto di partenza anche nel tuo libro è: non mi piace la demonizzazione, cioè tutto ciò che è demonizzare, metterlo in luce per forza negativa, come spesso viene fatto, è un punto di partenza che non mi piace, un po' censorio. Sì, l'ispirazione iniziale, se non esageriamo, diciamo l'input iniziale è il fatto che io non sopporto assolutamente restrizioni di libertà che non siano logiche e persuasive, cioè mi viene l'orticaria quando c'è qualcuno che deve scegliere per conto mio e mi impone delle cose o cerca di impormi delle cose non giuste. Questo è il principio base. Poi anche ispirandomi molto presuntuosamente a Erasmo da Rotterdam e al suo elogio della follia, sostengo che poi un pizzico di audacia, di follia appunto, di saper osare, di rischiare, è come dice Erasmo, indispensabile per la vita, per il progresso, perché se altrimenti ci si rifugiasse sempre nel buon senso e nelle abitudini, le abitudini diventano una cuccia, sì, e non si rischia nulla, il mondo non va avanti. Ma questi sono discorsi Vabbè, diciamo, quasi anche poi dal pericolo che poi e tutti giustamente, no, ma certo, quasi anche filosofico. Però di fronte alle storie che anche tu leggi di degrado, di emarginazione, di perdita di affetti, di denaro, di legami, che sono legate a volte a storie nelle quali il gioco d'azzardo è una componente che conta, tu come reagisci? Allora, in questo caso la mia risposta è: c'è uno Stato, anche se spesso in settori ben più importanti del gioco sembra che non esista, ma insomma istituzionalmente il ragionamento logico è: c'è uno Stato, ci sono le leggi, anche se spesso sembra che non esista. Allora, che lo Stato faccia riferimento e faccia delle leggi adeguate, ragionevoli e non illiberali, e poi tocca a chi ci governa di vigilare, anticipare, prevenire e all'occorrenza repressare. Ma ci sono guai e insidie ben maggiori in questo paese, inutile che ne faccio l'elenco, rispetto al gioco d'azzardo. E l'altra cosa appunto che a me non è andata giù è questa continua demonizzazione che porta a un'equazione veramente orrenda, cioè giocatore o frequentatore di casinò o di appassionato di poker o di altri giochi eccetera, uguale a vizioso da condannare, da emarginare eccetera. Non è così, dico nel libro, che è come se uno che è abituato a bere un buon vino deve essere automaticamente, dovesse passare subito per alcolizzato. Allora, questo è il punto di partenza sul quale vorrei coinvolgere Riccardo Bonacina. Cosa c'è di male? Intanto, forse quella che Cesare Lanza dice è una provocazione, quella di insegnare fin da bambini all'importanza dell'azzardo, della vita come azzardo, perché tutto è azzardo nella vita. E quindi dice: forse è meglio insegnare ai nostri bambini come gestire queste situazioni. Non so se filosoficamente, Riccardo, vuoi replicare su questo. E poi la questione a dire: è lo Stato in realtà il vero problema? Ci facessero delle leggi, si rispettassero queste leggi, e tutto ciò è compatibile con anche il gioco d'azzardo. Sì, allora innanzitutto, diciamo, la prima cosa a cui tengo a sottolineare è che la vita non è un azzardo, ma la vita è un rischio, e rischio e azzardo sono due cose molto diverse. Cioè l'azzardo è un gioco il cui esito è sempre affidato al caso e non all'abilità, e quando c'è qualcosa di capitale, oppure l'equivalente universale di qualcosa di capitale che è il denaro, no? Quindi ci terrei a sottolineare che la vita non è mai un azzardo, ma è l'assumersi dei rischi che implicano libertà e responsabilità. Quindi la libertà della persona, la responsabilità della persona, diciamo, non sono mai affidate all'azzardo, ma all'assunzione di un rischio, qualsiasi cosa si faccia, un matrimonio, un'impresa, una professione, no? Questo secondo me è una differenza capitale, tanto è vero che l'azzardo, diciamo, dai romani ai nostri giorni, perché il codice penale all'articolo 721 lo vieta e si è dovuto inventare questa definizione gioco d'azzardo legale, no? Per, diciamo, dal 2001 in avanti, sì. Perché ancora oggi se noi andiamo in un bar a giocare a morra, io e Cesare Lanza, andiamo contro il codice penale, quindi azzardo è diverso dal rischio. La seconda cosa, secondo me importante, è che assolutamente non c'è nessun intento demonizzante in chi gioca, anzi, conosco, diciamo, tutti i protagonisti della battaglia no slot, diciamo, definiamola così, è tutta gente che si prende cura di chi, diciamo, si perde in questo azzardo che non è quello che è in mente Lanza. Io ho letto velocemente perché mi ha invitato venerdì pomeriggio, sì. Quindi ho dato solo un'occhiata al libro di Lanza, ma diciamo il mondo di cui lui parla è un mondo che è quello dei casinò, insomma è quello di Dostoevsky, dove c'era il nobile. Sì, quasi un mondo edulcorato, forse un mondo, sì, mondo o comunque nobile. Di un tempo dedicato all'azzardo, di luoghi dedicati all'azzardo, oggi invece, diciamo, l'azzardo ha tracimato, diciamo, nelle nostre vie, accanto alle nostre case. Tanto per dire un dato del CNR di Pisa, si calcola che sono, diciamo, il 45% degli studenti che frequentano la scuola superiore nell'ultimo anno, è indagine seria, 45.000 studenti, 516 istituti scolastici, nell'ultimo anno il 45,3% degli studenti ha puntato somme di denaro, diciamo. Il problema diciamo, è regolarlo, noi non diciamo demonizzazione. Ma però quel regolarlo è la presenza dello Stato, cioè, certo, ma riteniamo che sia una presenza assolutamente inadeguata. Mm. Cioè il gioco su questo legale, Cesare Lanza credo che possa essere anche d'accordo su questo. Vabbè, adesso è caduta la linea, lo recuperiamo. Facciamo così, ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi lo recuperiamo. Il punto, diceva Cesare Lanza, è il concetto dello Stato, cioè lo Stato che non è in grado di regolare questo mondo, anche se effettivamente, come raccontava Bonacina, la sensazione è questa, che mentre il gioco d'azzardo prima era deputato in alcune zone, i casinò, in alcuni settori ben specifici dove si andava, in alcuni luoghi dove si andava a frequentare, pare ora che sia invece entrato prepotentemente, anche senza volerlo, nelle vite di tutti noi, perché basta scendere nel bar sotto casa o trovare un locale vicino e c'è la tentazione, uso anch'io questo termine un po' demonizzante, del finire nel provare questa idea del gioco d'azzardo legalizzato. 24 mattino. Allora parliamo di gioco d'azzardo legalizzato, con anche il numero verde per gli ascoltatori 800 24 00 24. Lo facciamo con Riccardo Bonacina, che è il direttore editoriale di Vita, e con Cesare Lanza, che ha scritto questo libro Elogio del gioco d'azzardo. Lanza, però, ci pensi, cioè di fronte alle storie di degrado che ci sono, dire ci pensi lo Stato, cioè lo Stato fissi le leggi e lo Stato sia responsabile, non è un po' uno scaricabarile? Perché avviene in tante situazioni analoghe. Se io vivo in un condominio, è lo Stato che deve proteggermi dall'eventuale vicino di casa che mi aspetta per sgozzarmi, oppure più semplicemente da fastidio con rumori e con atti non educati. Questo è incivili, cioè non educati e poco incivili, eccetera. Quindi è lo Stato il punto di riferimento. Io dico faccia le leggi, le rispettiamo. La maggior parte dei giocatori che io conosco, che ho frequentato, eccetera, rispettano le regole. L'alternativa non può essere il proibizionismo, cioè siccome allora questa cosa presenta dei rischi, aboliamo oppure facciamo in modo che venga ridotto attraverso tante misure restrittive al minimo. Sarebbe molto sbagliato, perché il gioco esiste da sempre, è un'esigenza della persona umana, così come è stata inventata o così come si è prodotta ed è apparsa nel mondo. E allora il problema qual è? Vigilare, educare, prevenire, reprimere, ma non proibire. Ma non proibire. Perché la proibizione aprirebbe il fronte al vero problema, che è quello dell'illegalità. Infatti, anche nei paesi dove il gioco è proibito c'è il gioco clandestino. Tu infatti scrivi, chi sono i... Scusami, è caduta la linea quando... Bonacina diceva: la vita non è un azzardo, semmai è un rischio, che sono due cose ben diverse. Ecco, allora io volevo dire, probabilmente lui, che è una persona che io stimo moltissimo, avrà fatto dei finissimi ragionamenti filosofici. Per me semplicemente non c'è azzardo senza rischio, non c'è rischio senza azzardo. Ho fatto il caso prima del matrimonio, di mettere al mondo un figlio. Certo, io posso non azzardare, non mi sposo, ho fatto una scelta che però non consiglierei, perché significa una mancanza di però vita. Dice Bonacina, quello più che un azzardo è un rischio. Certo, tutto comporta un rischio, ma la differenza tra il rischio e l'azzardo sono due concetti diversi. No, non accetto questo, perché nel momento in cui per sfuggire al rischio c'è solo la rinuncia, e ripeto, ho fatto l'esempio del matrimonio, del figlio, mi devo sposare, è un rischio, allora non mi sposo, e certo non c'è azzardo, però non c'è neanche vita, è una rinuncia. Invece il problema dell'uomo è di saper affrontare i problemi della vita, ecco perché consiglio non di insegnare il gioco, ma educare perlomeno i ragazzi a capire che la vita è fatta di momenti fortunati e momenti avversi, e l'equilibrio si trova nel saper affrontare le due stagioni o i momenti alternativi con lo stesso spirito. Capacità. Lanza, tu nel libro scrivi che due sono le categorie di persone che avversano il gioco d'azzardo: i moralisti e quelli che difendono, sintetizzo molto, i moralisti e quelli che difendono poteri forti tipo il Vaticano. Perché questa differenziazione così a grandi spanne, così netta? Perché il prevenista, diciamo istintivo, per usare un termine che viene spesso attribuito a noi poveri giocatori, compulsivo, il perbenista, la persona semplice, ammirevole per tante cose, insomma, che ha come prima reazione quello sempre di condannare ciò che anche lontanamente o rischia di essere trasgressivo. Ecco, questo è un popolo molto numeroso e si comprende. Se qualcuno ha ascoltato, qualcuno, avrete milioni di ascoltatori. Chi ha sentito, diciamo così, il mio consiglio di insegnare nelle scuole a saper vincere, a saper perdere, probabilmente si scandalizzerebbe. È la reazione immediata. Però bisogna ragionare sulle cose e approfondire i temi. Quanto al Vaticano, ad altri poteri forti, ogni volta che il Parlamento arriva alla discussione, il dibattito sull'apertura di nuovi casinò, teoricamente la maggioranza c'è, poi in Parlamento si forma una maggioranza trasversale che attraverso tutti i partiti, e su cui evidentemente ci sono delle lobby e un'influenza da parte della Chiesa. La quale Chiesa, poi non vorrei occupare troppo tempo, però nei secoli è stata molto contraddittoria su questo tema. Atteggiamenti molto Vediamo se Bonacina rientra, si sente parte in una di queste due categorie oppure le respinge al mittente. Bonacina. No, intanto saluto Lanza, che anch'io stimo, insomma, quindi partiamo da posizioni di stima. Dirò di più, io sono d'accordo con Lanza sul fatto che era una strada più sensata quella di aprire nuovi casinò, detto che stanno andando molto male dal punto di vista economico, perché noi, diciamo, questo paese ha fatto dei casini inenarrabili per aprire due casinò, e oggi ci troviamo 45.000 sale videolotteri, no? Quindi diciamo, abbiamo quasi 45.000 piccoli casinò nei nostri quartieri e nelle nostre strade. Io sono Non sono né proibizionista né credo moralista, sto fumando in questo momento, lo dico, ecco, quindi non ho pulsioni negative, dico solo che lo Stato, nell'ansia di portare a casa qualche miliardo di tassazione, non sta regolando l'invasione di un azzardo quotidiano, di un azzardo nelle nostre strade, che sta distruggendo quartieri, città, insomma, quando noi pensiamo che... Però questo è il punto stesso che dice Lanza. Che pro capite, cioè... gli italiani giocano 1703 euro, pro capite vuol dire dal neonato a mio nonno che non sta più in piedi. Sì, però questa è Bonaccini, no? È la stessa cosa che dice Lanza, cioè il problema è lo Stato che dovrebbe controllare di più, anche perché lo Stato guadagna molti soldi. Infatti sono d'accordissimo, cioè noi chiediamo una regolamentazione più seria di quanto dal 2001, che fu la prima apertura, la prima invenzione del gioco d'azzardo legale, sia stato fatto fino ad oggi. Ma per ora quello che è stato fatto è prendere dei soldi sicuramente come tasse. Sentiamo alcuni ascoltatori, sono tantissimi, perché su questo tema immaginiamo sono sempre molto molto numerosi. Roberto da Parma, buongiorno. Roberto. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Io volevo dire che è tutta un'ipocrisia, ma se uno si vuole rovinare giocando, che giochi, si rovina con la droga, che si droghi, vuole bere l'alcol, che beva l'alcol, vuol fumare, che fumi, basta che ci siano delle regole ben precise per cui, ok, lo vuoi fare, sei libero di farlo, paghi, dove vai a giocare, paghi le tasse, quello se compri la droga, la liberalizzerei così almeno ci pagano sopra anche le tasse e tutta la delinquenza andrebbe a finire a pallino, perché chiaramente uno è libero di fare quello che crede. Però Roberto, lei sa che poi alcuni dei costi, la citate lei, la droga, l'alcol, i costi relativi al fatto che una persona magari butta via parte della sua vita in questo, poi ricadono anche parzialmente su tutti noi, no? Sullo Stato, perché poi lo Stato cura le persone. Milan, certo che se noi la liberalizziamo e la vendiamo ci metteremo sopra le tasse per poter curare poi gli imbecilli che ne fanno uso eccessivo. Quindi lei è passato dall'idea di dire partiamo da qui per arrivare alla liberalizzazione della droga. Invece quindi sul gioco d'azzardo immagino che lei la vede come con un approccio molto liberale, come dice Lanza, non le piace l'idea di proibire nulla, ecco questo. Ma si proibisce da solo, uno si rovina, finisce i soldi. Molto molto molto duro, che si arrangi che si ammazzi. Va bene, grazie Roberto da Parma, questa è la sua opinione. Luigi da Pistoia, buongiorno. Buongiorno Luigi. A voi e ai suoi ascoltatori, ai suoi ospiti. La mia considerazione era questa: come può uno Stato tutelare persone quando sono in maggior parte collusi con questo sistema, prendono tangenti, prendono soldi comunque da tutte quelle ditte che producono giochi d'azzardo oppure da tutte quelle società che gestiscono i giochi d'azzardo? Beh, ma lei lo dice così perché No. Allora, c'è un intervento molto schietto, molto chiaro del Movimento 5 Stelle, in cui dà proprio l'elenco delle persone che sono colluse con questo sistema. Hai capito? Scusi, ma adesso il Movimento 5 Stelle ha dettato la regola su questo tema? Cioè... Non è che ha dettato la regola, semplicemente riporta all'attenzione di tutti chi sono le persone che sono colluse con questo sistema. Ma ci sono perché... Ce ne sono tante. Mi scusi Luigi, reinsisto con la domanda. Sono colluse perché lo dice il Movimento 5 Stelle o perché c'è una condanna che dice che sono colluse e sono in galera queste persone? No, attenzione. La collusione in questo caso non è un reato. Prendere soldi dalle ditte che producono giochi d'azzardo, produrre o essere all'interno di società che gestiscono giochi d'azzardo non è un reato. Beh, prendere soldi, far parte di una società, no, prendere soldi in maniera, non so, per poi fare... Chi l'ha detto che deve essere un reato? Non è un reato. Beh, dipende. È comunque un modo... Visto che non c'è una legge sulle lobby, può essere configurato come reato. Non c'è nessun tipo di reato. Beh, però fare delle leggi, o meglio, permettere a queste persone di fare delle leggi, è chiaro che non è possibile. Perché come faccio io, se fossi un ladro, a fare delle leggi contro il furto? Quindi lei dice vede troppa collusione dei politici in questo sistema. Allora, le 8:47 minuti. Cesare Lanza, che ricorda, ha scritto questo libro Elogio del gioco d'azzardo. In un punto, non so se poi vuoi commentare i due ascoltatori, ma anche quello molto, molto brutale che ha detto da Parma: uno si vuole rovinare, si rovini, e poi si ammazzi. Insomma, che è un. Dunque, io ammetto il principio liberale. Sì. Quello è un po' troppo, però forse certo che è un po' troppo, perché c'è un confine lì molto chiaro, anche purché non si danneggino gli altri, cioè io devo essere libero di spendere la mia vita come voglio, a patto di non provocare danni per i terzi. Questa è la mia filosofia. Già veniamo al mondo non per nostra volontà, almeno la vita dovrebbe consentirci la possibilità di scegliere, non che qualcuno scelga per noi. Quanto al fatto, alla tua giusta osservazione, che invece appunto poi gli alcolizzati, anche i disperati da gioco eccetera, costituiscono una spesa per lo Stato. Allora io faccio due piccole osservazioni. La prima è che noi paghiamo le tasse perché ci sia una società civile, equa e che soccorre i bisognosi, no? E quindi preferisco che vengano aiutati i drogati, gli alcolizzati, piuttosto che i politici si rubino e si mettono in tasca montagne di soldi. Questo in carattere generale. Poi eventualmente si possono studiare dei provvedimenti per cui giustamente chi si autodistrugge e ha bisogno poi di cure, di assistenza, sì, eccetera, tutto questo non sia a carico dello Stato. Sì, sì, questo sì. Beh, sì, però c'è un pochino, non so se Bonaccina, c'è un pochino di ipocrisia anche questa dello Stato, che definisce magari poi delle patologie come la ludopatia, patologie che si può imputare lo Stato stesso di avere, non dico creato, ma almeno stimolato, diciamo così, Bonaccina, o è scorretta questa analisi? No, voglio dire, ovviamente, cioè quando hai ogni giorno, pensiamo alla, per esempio, una cosa che noi chiediamo è regolare la pubblicità, no? Del gioco d'azzardo che invade, diciamo, le TV, il web, gli smartphone. Ovviamente se induci l'azzardo e quindi la dispersione di denaro con diciamo una pubblicità non regolata, invece come succede per la, diciamo, il fumo, come succede per l'alcol, ovviamente c'è dell'ipocrisia. Dopo riconoscere la ludopatia, come ha fatto il decreto Balduzzi, che io chiamerei gioco d'azzardo patologico, no? In tutto il mondo la chiamano così, si chiama, sì, GAP. Quindi, diciamo, se crei il problema poi dopo devi affrontare. Devo dire che su Twitter, Bonaccina, c'è un ascoltatore che scrive, un twittatore, come definirlo, che il dato dei 1705 euro è falso, quello dei 1705 euro pro capite spesi dai cittadini, non so dove, non lo so, noi pigliamo i dati dall'azienda dei monopoli, quindi è abbastanza attendibile, loro non ce lo mettiamo noi. Sentiamo Matteo da Bergamo. Buongiorno Matteo. Sì, buongiorno, buongiorno Milano. Dica. Una domanda, volevo condividere con voi uno spunto molto veloce. Due mesi fa io ho un'attività, ho richiesto un preventivo con una delle tante concessionarie di slot VLT. Lo spunto qual è? Quando ho incontrato i fornitori, al di là dei margini e tutti gli altri aspetti economici, loro stessi mi hanno fatto notare tutta questa campagna di argomentazione contro queste slot VLT, però dall'altra parte mi dicevano, e secondo me ha torto ragione, ognuno è soggettivo, dicono però nessuno fa notare la stessa malattia, passatemi il termine, per chi spende una determinata somma tra lotto, superenalotto, gratta e vinci. Questo volevo, secondo me, dice c'è una demonizzazione delle cosiddette macchinette e non del resto delle altre tipologie di gioco. Esatto. Ma forse perché, non lo so, effettivamente Bonaccina, ci si è contro anche la campagna no slot, e perché no gratta e vinci, no lotto, no gioco d'azzardo in generale, Bonaccina? Sì, ha abbastanza ragione l'ascoltatore. Il problema è che diciamo in pochi anni da zero new slot siamo passati a 420.000, no? Quindi diciamo è la più visibile, diciamo, è il bersaglio più visibile. Ed entra, diciamo, nella vita quotidiana in maniera visibile. Ci sono addirittura dei baristi che stracciano i contratti, che si ribellano vedendo gente rovinarsi, e poi questa gente che si rovina sono pensionati, sono magari disoccupati, sono ragazzini, insomma, chi, basta leggere i giornali, sì. Più o meno una volta alla settimana avete... Sì, per quello diciamo le macchinette vengono identificate anche come qualcosa di più capibile anche sì. Da tutti, ecco. L'altra cosa è perché con le slot, non so, avete visto venerdì diciamo la notizia, la Procura di Napoli, ci sono stati 55 arresti, 470 milioni sequestrati al clan dei Casalesi che stavano, diciamo, la promessa del gioco d'azzardo legale di togliere terreno all'illegalità, diciamo. Questo è un punto interessante, perché Cesare Lanza lo tratta nel libro dicendo, vabbè, spesso si dice il gioco d'azzardo è terreno fertile per la criminalità, ma allora con questo principio, Cesare, non dovremmo fare nulla, cioè non dovremmo imbracciare o imboccare nessuna strada che porti sviluppo, che porti economia, che porti denaro, perché c'è il rischio altrimenti che la criminalità organizzata si impossessi di questo settore. La soluzione sarebbe sempre quella, ci siano delle regole e si facciano rispettare. Lanza, perché questo approccio nel libro sul tema rapporto gioco d'azzardo criminalità? Guarda, intanto voi prima, qualche istante fa, avete dato la dimostrazione di come poi sia facile allargarsi, dire perché no alle slot, perché no a tutto il resto. Intanto ci sono delle motivazioni. E velocemente le slot nei bar, negli esercizi, insomma, quelli diffusi in tutto il territorio, non nei casinò, sfuggono spesso a dei controlli, cioè ci sono degli imbrogli per i giocatori, per le povere vecchiette, come si dice, per i ragazzi, perché le probabilità di vincere sono minime. E anche qui torniamo al punto di prima, che vengano controllati oppure che si diano licenze con severità, non con questa facilità. E la criminalità? Quanto invece al Super Enalotto, a cose gratte vince, eccetera. E questo è un paese tormentato da un'infinità di tasse ingiuste, cervellotiche. Allora, la lotteria è una tassa indiretta. Se permettete, io preferisco, anziché pagare una tassa per i motivi più assurdi, spendere un euro, due euro, con la possibilità, almeno ho una speranza, qualcuno poi alla fine vince, ed è comunque un momento di intrattenimento. Cioè, tassa per tassa, almeno c'è il rischio di portarmi a casa dei soldi. Ecco, però... è comunque un momento di intrattenimento. E sul concetto della criminalità ho un minuto per chiudere, Cesare. Prendi, gratta e non vinci, ma avendo grattato ti sei divertito. Vabbè, invece in 30 secondi, allora, la questione della criminalità, l'approccio è, allora, con la scusa della criminalità non si deve fare nulla. Non solo, ma col proibizionismo si favorirebbe esattamente la criminalità. Sì, però il problema è che comunque come è così, e cioè con delle regole, evidentemente le regole non vengono fatte rispettare, perché la criminalità organizzata, come ci ha raccontato Bonacina nell'ultimo evento di cronaca che risale solo a 3 giorni fa, ci si tuffa a pesce, e la criminalità trova spazio in questo. Io mi devo fermare qui, per il momento vi ringrazio, torneremo su questo tema, tanto lo sapete. Vi ricordo il libro di Cesare Lanza, Elogio del gioco d'azzardo, se lo volete, L'attimo fuggente editore, è un pamphlet che prende le difese appunto del gioco d'azzardo. Ringrazio anche Riccardo Bonacina, direttore di Vita, e ricordo la campagna No Slot, se volete, così la trovate anche sul sito di Vita, su Twitter, molto facilmente. Potete riascoltare tutto sul sito radio24.it. Noi siamo qui, non molleremo il colpo, stiamo fino al tutto luglio con Alessandro Longoni in redazione, con il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Seguiteci anche su Twitter, io sono Alino Milan, mentre 24 Mattino è l'account della trasmissione. A domani. 24 Mattino.